Job 24. Oggi, in vista della giornata dedicata alle donne, l'8 marzo, domenica prossima, ci dedichiamo proprio alle lavoratrici in rosa, purtroppo ancora penalizzate sia in termini di occupazione che di retribuzione rispetto ai colleghi maschi. In questo periodo di crisi le donne hanno bisogno di una marcia in più, e cioè della consapevolezza di sé e del proprio valore, come ci conferma Luisa Dani, autrice del libro Donne, trovare, ritrovare e cambiare lavoro. Io credo che l'elemento fondamentale sia proprio la consapevolezza e la capacità quindi di cogliere quali sono davvero le proprie abilità e le proprie competenze. Credo che a volte infatti sia proprio questo il passaggio che manca, non sapere davvero quanto si vale e quali sono le opportunità reali sul mercato del lavoro. Questo credo che sia un problema che hanno sia i giovanissimi e le giovanissime, così come pure una donna che magari riprende a lavorare dopo aver accudito i figli. Io quello che propongo sono infatti anche tutta una serie di esercizi, proprio un percorso di consapevolezza per raccogliere in un modo organico le proprie conoscenze, le proprie esperienze e quindi identificare quali sono le competenze. Poi ci sono delle donne che il lavoro ce l'hanno, non per questo sono soddisfatte, donne che magari sono impiegate nella stessa azienda da anni e non riescono a fare nessun passo avanti. In realtà c'è una possibilità di crescita anche restando all'interno della stessa società, ma come? Sicuramente le barriere in azienda allo sviluppo femminile sono molte, ma io credo che un elemento importante sia anche quello di ricordare che è anche possibile candidarsi, quindi l'idea non è quella di rivolgersi al superiore per chiedere necessariamente uno sviluppo professionale, perché questa non sarebbe una tattica vincente, ma invece di identificare qual è il ruolo verso il quale ci si vorrebbe indirizzare e quindi candidarsi in un modo chiaro rispetto a questa posizione specifica. Quindi non semplicemente chiedere, ma imparare a proporsi e a candidarsi rispetto a una area professionale, quindi a uno sviluppo ben chiaro. Questi e altri consigli nel libro Donne, trovare, ritrovare e cambiare lavoro di Luisa Dani, che abbiamo appena ascoltato, edito da ETAS. Ma ho altri libri da suggerire alle donne all'ascolto. Uno di Wendy Sachs, edito dal Sole 24 Ore, si intitola Mamme Manager, come continuare a lavorare e a far carriera dopo la maternità, mentre l'altro, più particolare ma interessante perché spiega che le donne guadagnano meno e spesso lavorano di più degli uomini perché non si rendono conto che chiedere è possibile, si intitola infatti Le donne non chiedono ed è sempre edito dal Sole 24 Ore. Ed è tutto per oggi, riascoltate se volete al nostro sito www.radio24.it e l'indirizzo per scrivere simile job24@radio24.it. Ci sentiamo domani, un saluto da Roberta Pellegatta.